Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Stasera Napoli e Palermo proveranno a compensare le delusioni di ieri sera di Juventus e Sampdoria. Sinora le squadre italiane hanno vinto 2 partite su 18 in Europa League, il che significa, mi pare in maniera incontrovertibile, che ai nostri club l'Europa League interessa in maniera molto relativa. Dopodiché, viste le condizioni in cui per esempio ieri sera si è giocato in Polonia, non è poi detto che sia del tutto sbagliato. Ci torneremo più tardi, così come ci sarà spazio per l'assegnazione di 2 edizioni dei campionati del mondo che verrà oggi pomeriggio, l'edizione 2018 e 2022, e per la vigilia della più lunga giornata di campionato della storia italiana, perché dal fischio d'inizio di Orsato a Lazio-Inter domani sera a quello al triplice fischio finale di Morganti per Napoli-Palermo passeranno 73 ore e 45 minuti, ovviamente più recupero. È un nuovo primato europeo. Quel che vi voglio proporre oggi invece in apertura è un parallelo tra il nostro calcio e quello che oggi domina la scena mondiale, cioè quello spagnolo, ovviamente sull'onda della suggestione creata dall'incantevole Barcellona-Real Madrid dell'altra sera, ma partendo dalle radici, dai settori giovanili, perché è da lì che nasce la differenza. La settimana scorsa, per esempio, quindi prima ancora di questo spettacolo, la Gazzetta dello Sport aveva dedicato un'inchiesta a questo modello Spagna, in cui si sottolineava come il filo conduttore dell'allenamento giovanile laggiù sia quello del pallone, cioè molta più tecnica e molti meno esercizi fisici. Parlava Santisteban, che è stato una gloria del Real degli anni 50-60 e che oggi da qualche anno fa il coordinatore delle nazionali giovanili spagnole. Possiamo esaminare alcune di queste dichiarazioni. Per esempio Santisteban ha raccontato che nei loro settori giovanili si punta tutto sulla tecnica e non si bada assolutamente all'aspetto fisico. Se un ragazzo è piccolino, dice, gracile, ma ha talento, noi lo consideriamo un potenziale giocatore, non lo scartiamo certamente per colpa del suo fisico, e mi pare che i riscontri ci siano, perché il meglio del Barcellona è proprio vedere giocare Xavi, vedere giocare Iniesta, vedere giocare Pedro, vedere giocare l'immenso Messi, vedere giocare allo stesso Puyol, che non è certamente un gigante pur avendo un'elevazione straordinaria. Io suggerirei di parlarne con il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ma insomma la chioccia storica, perlomeno di questa epoca, dei vivai italiani, che è Mino Favini. Buongiorno Favini. Buongiorno Garanzini. Senta, provi a inquadrare lei il problema, e cioè lei ha letto, immagino, questa inchiesta. Certo. Ed è al corrente delle metodologie spagnole, di cui poi parleremo anche un pochino più in dettaglio. Qual è la differenza iniziale tra loro e noi? Allora, l'ha già accennato lei il problema, dove sta Garanzini. Cioè, nella selezione innanzitutto, non fanno una selezione fisica-atletica, ma esclusivamente tecnica-attitudinale. No? Perché? Perché il completamento nella crescita del giovane calciatore sotto l'aspetto fisico, atletico e tattico, ha tempo, ha sufficientemente tempo per crescere, per completarsi, ma se non si agisce su delle basi tecniche e attitudinali già dall'inizio, è difficile, non è che si possa insegnare a giocare a calcio a tutti, qualcuno deve nascere e qualcuno nasce naturalmente con delle attitudini particolari che, perfezionate, seguite da tecnici preparati per l'addestramento, e qui c'è un altro punto importante da toccare, può diventare poi un ottimo calciatore. Questo punto importante da toccare, a cui hai accennato, facciamolo subito. Allora, occorre formare coloro i quali insegnano calcio con addestramento particolare basato essenzialmente su quelli che sono i fondamentali, no? E quindi i requisiti primari per l'espressione poi del talento calcistico. Bisogna naturalmente partire da chi ha un minimo di talento, no? E poi una cosa particolare mi risulta per quel che riguarda la cantera del Barcellona, sì. Iniziano l'allenamento con la palla e lo finiscono con la palla. Noi dedichiamo ore e ore magari anche a quello che è la crescita, quella che è la crescita puramente fisica. Atletica, e invece forse conviene tornare ai primi tempi, cioè all'addestramento, all'insegnamento dello stop, della guida della palla, del calciare di collo, di interno, d'esterno e in tutte le possibili modalità, no? Quindi se l'addestramento dei nostri giovani, io l'ho sempre pensato in questo modo, ritengo, sono contento di quello che è successo, sta succedendo adesso, perché abbiamo passato anni e anni magari pensando che il calcio potesse essere fatto solo da quella che è l'espressione della forza, sì. È naturale che serve anche quello, per l'amor di Dio, però perché abbiamo trascurato quelli che erano i fondamentali, dando la precedenza invece a situazioni che si verificano poi col tempo e nel tempo. Questa sua filosofia, poi arriveremo al modello Barça, perché ho anche un buon documento sotto gli occhi da sottoporle. Per la sua esperienza, quanto ha dovuto lottare e quanto sta ancora lottando lei come responsabile di un settore giovanile per far passare questi concetti contro gli altri invece, che vorrebbero da noi soprattutto degli atleti muscolati e pazienza per la qualità dei piedi? Diverse situazioni mi hanno messo in difficoltà e in imbarazzo nel tempo, in tanti anni. Sono 40 anni che faccio questo tipo di lavoro, che non è poi un lavoro, è una filosofia, è l'espressione di una situazione che ho sempre pensato, e sono contentissimo che il Barcellona sia riuscito ad esprimere quello che io ho cercato di fare in minimi termini, naturalmente nei confronti del loro risultato, che però al quale ho sempre creduto, e naturalmente il tempo poi ha dato ragione anche a questo modo di vedere e di pensare, certo. Le cose. Io ho avuto anche qualche importante direttore sportivo che mi ha detto sì, vabbè, ma il tic tic toc, il possesso palla. Invece il TikTok, eccolo qui dov'è il TikTok, certo. È la base. È la base di chiaro che non è la sola cosa che serve per poter giocare a calcio, questo lo sappiamo tutti, però i fondamentali diventano una cosa importantissima e non assolutamente trascurabile. Facciamo un breve intervallo, Favini, che sentiamo come va sulle strade. Volevo domandare a Favini se sa quali siano gli investimenti medi di un settore, per un settore giovanile un po' all'avanguardia in Italia. Ma l'Atalanta investe circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno. Che non sono pochi. E non sono pochi assolutamente. Tutt'altro per la dimensione Atalanta. Sì, esatto. Ma ci sono società, le più grandi, diciamo, o le più quotate nel calcio italiano, che investono anche 7, 8 milioni, 10 milioni di euro. Yeah. Quindi soldi non si può dire che non se ne investano per il settore giovanile. Sì. Forse bisogna essere più attenti nel capire come impiegare questi soldi e come far sì che vengano fruttati. Lei mi ha anticipato, mi scusi, sa perché? Perché ho sott'occhio questo dossier che mi ha procurato Franco Piantanida, per cui la cantera del Barça, che oggi è il modello mondiale, è un progetto voluto dall'allora presidente Núñez nel 1979, ma soprattutto da Cruyff. Attualmente loro investono 15 milioni di euro circa l'anno, disseminati in un vivaio che comprende 12 squadre maschili e 4 femminili, per un totale di 250 ragazzi. È una grande somma, ma se lei mi dice che da noi in Italia si arriva a investirne 7-8, ho l'impressione che la resa e l'efficacia di loro, poi Cruyff, a cui è sempre piaciuto un tantinello esagerare, dice gli altri i palloni d'oro li comprano, noi ce li facciamo in casa, che non è male come slogan. Però intendo dire, ha ragione lei a osservare che probabilmente questi investimenti dovrebbero essere mirati in una maniera diversa. Esatto, Infatti io invidio Santisteban, che è riuscito ad ottenere quello che io non sono riuscito ad ottenere naturalmente, o che ho ottenuto solo in parte, con questo pensiero, perché questo è il pensiero ed è la mia filosofia di sempre, no? Sì. Dicevo prima che magari mi sono sentito rimproverare da qualche direttore sportivo, qualcuno mi ha detto: ma dove vuoi che vada quel giocatore lì, è alto 1,70 e poi quel giocatore è arrivato in nazionale. Quindi bisogna stare attenti nel distinguere le cose e soprattutto con le persone che figurano da esempi e da istruttori in ambito giovanile professionista. No, io settimana scorsa, Garanzini, sul fine della scorsa settimana sono stato in Marocco, no? Sì. Casablanca, Rabat, per vedere un centro di formazione per giovani calciatori voluto niente proprio di meno che dal re Mohamed, no? E devo dire che in un paese fondamentalmente povero, no? Ho visto un centro sull'onda di quelli che sono i criteri francesi, ho visto un centro di formazione stupendo e ho seguito anche un allenamento di giovani ragazzi che vanno dai 13 anni ai 18, che hanno iniziato il lavoro col pallone e l'hanno terminato col pallone, facendo dell'addestramento vero. Ho scelto anche un paio di esercitazioni che farò vedere ai miei allenatori, naturalmente, no? Ora, forse dobbiamo darci un giro, un stretto giro di vite, diciamo, anche noi come istruttori, come insegnanti, per migliorare quello che è l'attuale situazione del calcio giovanile in Italia. Certo, che poi ovviamente significherebbe, allevando dei giocatori più raffinati, significherebbe poi avere un diverso livello tecnico in alto più avanti. Dunque, dai Pulcini in su, io leggo di questa Masia, di questa cantera del Barcellona, il modello è uguale a se stesso per tutte le età e si raffina mano a mano che le età crescono. Quindi si gioca a uno o due tocchi, non di più, a tagli e a triangoli con accelerazioni, tutti sempre devono cercare l'azione offensiva, il risultato non conta, conta soltanto l'armonia del gioco e l'affinarsi progressivo di questo gioco di squadra. Il direttore generale della cantera raccomanda: tutte le nostre squadre giocano col 4-3-3, ma quello che conta è lo stile di gioco, perché i ragazzi devono imparare a pigliarsi le responsabilità tecniche e caratteriali di costruire gioco, interpretandolo in modo creativo e offensivo. Ora poi ci sono i cicli fortunati, Favini, lei lo sa molto meglio di noi, no? Certo. Quelli in cui hai fatto la pesca miracolosa con dei talenti come Xavi, come Iniesta e come Messi, tutti contemporanei, però è indubbio che a questa maniera il ragazzo che tu fai debuttare, lo si è visto anche l'altra sera, in condizioni magari difficili, in condizioni estreme, quando hai la squadra decimata dagli infortuni, come è capitato all'Inter recentemente, tu hai uno che, giocando da quando ha 12 anni alla stessa maniera di come giocano i titolari, beh, è un po' più facile inserirsi, eh? Difatti, in questa esperienza fatta la settimana scorsa in Marocco, ho visto un allenamento uguale, chiaramente a ritmi diversi, no, per bambini di 13 anni e per giovanotti oramai di 17-18 anni, no, tutto, ripeto, fatto con la palla. Un altro merito che ha la cantera del Barça, no, è quello di aver fatto capire, sicuramente sono riusciti a far capire, che conta l'appartenenza, cioè un pallone vale per tutti e non un pallone per ognuno. Sanno già che se la palla in un certo momento della partita ce l'ho io, poi diventerà andrà da un mio compagno, poi all'altro e poi mi ritornerà immancabilmente. Quindi c'è la convinzione di giocare non tanto per se stessi, certo, ma tanto per il gruppo. Vince la maglia, vince la società, vince il gruppo e non il singolo. Questa è una cosa importantissima, probabilmente, che loro sono riusciti e riescono ad inculcare ai loro giovani calciatori fin da quando entrano nella cantera. Le cito ancora la giornata tipo di un ragazzo alla cantera del Barça, perché mi è tornata in mente una vecchia conversazione con lei. Sveglia alle 7, colazione, alle 8 tutti a scuola fino a 1:30, pranzo, riposo, allenamenti, compiti e studio a seconda degli orari. È ovvio che d'inverno si comincia con gli allenamenti e poi i compiti e lo studio dopo, ed estate invece viceversa. La cena, un paio d'ore di svago e alle 11 a letto. Lo studio ha un ruolo fondamentale. Lei una volta mi aveva detto proprio a questi microfoni una cosa fondamentale, l'aveva detta anche in maniera dura, ricordo, e cioè sì. Questo è un aspetto su cui che non si può assolutamente trascurare. Difatti, cerco di stare molto attento, soprattutto per i ragazzi che vivono Bergamo ma non sono bergamaschi di origine, quindi magari arrivano dal sud, dall'est o da altre regioni italiane, ma vivono a Bergamo e frequentano la scuola Bergamo. Sono abbastanza severo con l'aiuto di una professoressa psicopedagogista che è Lucia Castelli, e che mi controlla naturalmente l'attività scolastica dei ragazzi. Perché? Perché sono convinto che uno, se arricchisce la propria testa, il proprio cervello, diciamo, ha più facilità poi ad apprendere anche quel che gli viene insegnato in campo calcistico, no? Per cui il risultato scolastico dimostra attenzione, volontà, partecipazione, oltre che ad arricchire personalmente quello che è il giovane calciatore, lo agevola anche nel capire cosa deve fare e cosa deve fare naturalmente per progredire e migliorarsi. Certo. Scrive un ascoltatore, ma lei crede che se un giovane tipo Iniesta o Xavi fosse stato all'Inter o al Milan non sarebbe emerso? Bisogna semplicemente sperare che nascano in Italia. Io dico che si sarebbero viste le qualità, ma lei sarebbe sicuro, ci metterebbe la mano sul fuoco che uno col fisico di Xavi o Iniesta in una squadra italiana avrebbe avuto le possibilità che ha avuto là di crescere? Io penso che anche in Italia giocatori di questo calibro sarebbero arrivati, però qualche dubbio onestamente lei. Ce l'ho. Ce l'ha anche lei, perché prima devono essere grandi, devono essere, esatto, devono esatto. essere grossi, devono saper fare il test di Cooper non so in quanto tempo, che sono, certo. Sono un po' le tare, no? Del calcio di casa nostra. Favini, se io, visto che insomma, più o meno il tempo oggi è terminato, perché poi abbiamo una seconda parte legata sì. all'attualità, se io anche tra non molto tempo provassi a tornare a disturbarla, lei cosa risponderebbe? Sì. Bene, sì. Sono qui. Mi fa un grande... Io fino alle 3, finché non vado sul campo... Ah, perché adesso lei va a vedere l'allenamento, ovviamente. Ah, sì, adesso certo. Ho l'allenamento dei ragazzi dell'Atalanta, e quindi primavera, allievi, giovanissimi, esordienti, quindi e questo passo è... il mio pomeriggio sul campo dalle 3 alle 5 e mezza. Dalle 3 alle 5 e mezza, questo è il suo menù quotidiano. Esatto. Certo, visto che non è una signora, io le posso anche chiedere l'età. Sì, come no, certo, ci mancherebbe. 74, fra un mese diventano 75. Fantastico, allora ci risentiamo prima di un mese per gli auguri più affettuosi. Va bene, grazie. Grazie Favini, grazie. Buone cose, grazie. Buon pomeriggio, immagino abbiate capito che lo slogan storico di Radio 24, la passione si sente, si attaglia perfettamente a un uomo di... 70, quasi 75 anni che vive con quella passione il suo mestiere, e che questa conversazione la ripeterà magari anche, ma chiudendola in tempo per andare a vedere gli allenamenti di tutte le squadre giovanili della società per la quale sta lavorando. L'intervallo per i mercati. Beh, vale la pena leggere alcuni soltanto dei molti messaggi arrivati per avere, perché è una bella campionatura rispetto a quello di cui si è parlato prima con il grande Favini. Francesco da Vicenza scrive: ho sempre sostenuto che il calcio fosse uno dei pochi sport dove il gesto tecnico può ancora averla meglio sul fisico. Ne è un esempio Baggio negli ultimi anni di carriera. Benissimo. La realtà, scrive Michele da Torino, è che noi istruttori chiedono esclusivamente risultati a tutti i livelli, altrimenti ti mandano via. E questa è una riflessione molto importante da fare, perché non ci sono soltanto i Favini illuminati in giro, ci sono anche appunto società in cui quello che conta è vincere già a 12 anni, vincere con la squadra squadra dei 12, dei 13, degli 11, dei 14 anni. E poi è ovvio che lì fanno un po' fatica a crescere i talenti. Nell'80 ho fatto una prova nel calcio Vicenza, già mentre mi cambiavo mi hanno detto che ero troppo piccolo, scrive Roberto. Sono di Bergamo, quello che dice Favini è tutto vero, amici che avevano grande talento ma non avendo valore e disciplina sono stati fatti fuori dall'Atalanta, scrive Tom. Beh, in questo caso può anche darsi che tutti i torti non li abbiano avuti, e poi tanti altri ancora, magari cercherò di selezionarne qualcun altro. C'è un ascoltatore in linea, lo sentirei e poi però facciamo un passo indietro su rispetto agli argomenti che vi annunciavo all'inizio. Andrea, chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo dare una testimonianza di 20 anni fa che praticamente è la testimonianza che parlava prima il vostro ospite. Io ho avuto la fortuna di allenare il settore giovanile del Parma negli anni 88 e allora mi ricordo che i direttori sportivi, Sogliano, che forse lei conosce, come no? E Larini anche. Non guardavano al risultato, cioè nel senso che noi istruttori quello che ci insegnavano era quello che dovevamo trasmettere a questi ragazzi, l'insegnamento, e quindi allora infatti il Parma, se lei se lo ricorda, in quegli anni lì aveva anche tirato fuori dei giocatori importanti. Un eccellente settore giovanile, certo. Quindi 20 anni fa secondo me c'era quella cultura, però c'erano anche altri presidenti, cioè oggi il calcio è diventato forse troppo business. Mi ricordo che quando andò via Ceresini, perché allora il presidente era Ceresini, che era uno di Parma e che era un signore, ecco, arrivò il guru Tanzi, il guru Tanzi probabilmente interessava più avere dei ragazzi che arrivavano, per carità, senza voler togliere niente a quelli del sud, però presero tanti ragazzi del sud, tanti ragazzi dall'estero, e i ragazzi di Parma vennero un po' messi in disparte. Il culto del, come parlava prima, della scuola venne abbandonato, nel senso che io mi ricordo un ragionamento che gli fece un personaggio vedendo un ragazzo arrivare, ha detto: guarda, questo non potrà mai diventare un calciatore perché è 2 giorni che non viene perché deve studiare. Per dire che 20 anni fa comunque c'era un po' questa cultura che oggi credo che per più per business che non la mancanza di... Si è persa o comunque da molte parti si è persa. Grazie Andrea di questo suo racconto. Vi dicevo, un passo indietro. Allora, la Juventus ieri sera ha giocato in condizioni palesemente irregolari, non che fossero poi regolarissime nemmeno per gli avversari, ma insomma non è causa del pareggio di ieri un'eliminazione, perché se pareggi 5 partite su 5, insomma, di cui alcune in casa, è evidente che va cercata lì la causa di un'uscita dalla Coppa, che comunque non mi pare abbia turbato più di tanto né nella società, nei giocatori, né nella tifoseria. Però indubbiamente andare fin lì, pigliare tutto quel freddo, rischiare tutto quello che hai rischiato e poi uscire anche eliminati non è il massimo. Lo io ho provato invano a chiedere anche il rinvio, giustamente, per quel campo ghiacciato. Sentiamo Marotta. Assolutamente sì, sia al delegato e all'arbitro, tutte e due, quindi il motivo principale non era tanto la temperatura quanto invece lo stato del terreno, che era ghiacciato. Tra l'altro una cosa veramente su cui anche l'UEFA dovrebbe comunque valutare era che ieri era molle e oggi era addirittura cemento, quindi si parla tanto di manutenzione e di salvaguardia del terreno di gioco, ed è incomprensibile come nel giro di 24 ore abbiamo potuto verificare le condizioni del campo completamente opposto dalla sera alla mattina. E questa era la voce della Juventus. Sentiamo ancora di Gasparin, del direttore sportivo della Sampdoria, sull'eliminazione invece in casa con il PSV Eindhoven. Brucia indiscutibilmente, avevamo fatto un primo tempo molto bene, secondo me andando meritatamente in vantaggio, colpendo un palo a portiere battuto, e quindi nel primo tempo complessivamente sul piano della manovra e sul piano delle prove dei singoli bene. Nella seconda frazione non siamo riusciti a ripeterci, noi dobbiamo pensare a terminare le partite che rimangono da qui a fine dicembre e poi a gennaio vedremo quelle che saranno le valutazioni complessive. Una delusione per la Sampdoria, che quest'anno in campo internazionale non è certamente alla prima, perché quella vera risale risale all'estate, a quella incredibile rimonta subita in casa quando la qualificazione alla fase a gironi della Coppa Campioni sembrava davvero cosa fatta. Vi dicevo di questo sorteggio, di questa decisione, e anche politica, sarà robustamente politica, di oggi, sull'assegnazione dei campionati del mondo, edizioni 2018 e 2022. Non che ci sia questa spasmodica attesa, ma insomma la curiosità sì. Nel 2018 sono in ballo Belgio-Olanda, Inghilterra, Russia oppure Spagna-Portogallo, perché sarà comunque un'edizione europea. Favorita sembra essere la Russia, ma senza escludere nemmeno le altre candidature, soprattutto Inghilterra, Spagna e Portogallo. Nel 2022 invece si giocherà altrove, e questo altrove può essere, il concetto di altrove è molto ampio, perché si va come candidature ufficiali dall'Australia alla Corea del Sud, al Giappone, al Qatar e agli Stati Uniti. Favoriti paiono essere proprio quelli del Qatar, per la promessa di costruire stadi avveniristici e probabilmente per, come dire, la loro capacità di fare lobby, diciamo così, su delegati FIFA che sembrano non essere così insensibili al fascino del, come si può dire, per evitare querele, insomma, al fascino del coinvolgimento e comunque della valorizzazione di grandi strutture che potrebbero fare la fortuna di quell'edizione 2022. Tornando invece alla Europa League, stasera è il turno di Napoli e Palermo. Allora, Utrecht-Napoli, la vigilia di Mazzarri. Il nostro intento è sempre di provare a vincerle tutte. Poi, come ho già detto, le variabili fanno sì che il risultato possa prendere una piega diversa. A volte un allenatore, quando palpa il gruppo, deve trovare le parole giuste, deve cercare di far sì che loro, quando vanno in campo, rendano al massimo. E non è facile. Io credo l'importanza, l'orgoglio per cercare di vincere la partita, come si usa dire sempre, è una partita che si carica da solo. Chi scenderà in campo lo sa. Speriamo sia una volta buona, insomma, perché ripeto, due vittorie su 18 finora in Europa League, considerando tutte le italiane partecipanti, è un bottino davvero davvero avvilente. Una che potrebbe riuscirci è il Palermo, è il Palermo che ospita il Losanna, quindi insomma l'impresa proprio proibitiva non sembra. Sentiamo la vigilia di Miccoli. Noi sicuramente dobbiamo giocare per tutte e tre le competizioni, perché come ha detto il mister, abbiamo lavorato un anno per arrivarci ed è giusto provare perlomeno a passare il turno, e quindi giocheremo e lotteremo per tutte e tre le competizioni. Per noi saranno importanti tutte, come anche la Coppa Italia stessa. Sicuramente la voglia e la determinazione la metteremo. Ho giocato pochissimo in competizioni europee col Palermo, quindi non ne ho avuto la possibilità, però mi farebbe piacere comunque cominciare a segnare anche in Europa. Il fascino del petrodollaro, scrive Omar, che ha capito come prima mi fosse, no? fosse stato vittima di amnesia. Esattamente, il fascino del petrodollaro, e magari non solo, caro Omar, grazie dell'aiutino via SMS. Giovanni ha chiamato dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzi. Dica. Senta, io volevo... Abbassi un po' la radio. Sì, no, l'ho spenta. Ecco, bravo. Vorrei allacciarmi alla preparazione dei giocatori... riguardo insomma la tecnica, sì. C'è una riflessione, dicevo che anche i nostri giocatori, che prima erano tecnicamente diciamo preparati, adesso in una partita non si azzardano nemmeno a fare uno stop, proprio perché o hanno paura o perché l'allenatore, giustamente o ingiustamente, gli dice di non fare certe cose insomma che possono deliziare. Quindi all'altro di tutto, io penso che oltre alla preparazione, quanto sono piccoli insomma, e anche se arrivano con un tasso tecnico buono, arrivato in prima squadra con siccome è quasi pure sempre il risultato, allora si lascia un po', non si perseguita insomma a insegnare ancora calcio, si lascia così. Questo no, adesso che un allenatore raccomandi, non so, non ho capito bene cosa ha detto, di non sto parla mi sembra un po' esagerato. Non si continua l'affinamento dei piedi di un giocatore, questo no, io un caso che ricorderò sempre, perché allora ero un cronista discretamente giovane e seguivo gli allenamenti sui campi, allora si poteva, tra l'altro, a differenza di oggi, dove tutto è protetto come se ci fossero i segreti del mondo, ma non quelli che poi finiscono su Wikileaks. Allora si seguivano gli allenamenti e ricordo per esempio che quello che poi è diventato un grande terzino come Tassotti, arrivato dalla Lazio al Milan a 20 anni, aveva tante caratteristiche buone per diventare un grande giocatore, ma non i piedi. Però Nils Liedholm quello gli curò e lo prese da parte e, oltre al normale lavoro con il resto della squadra, inflisse per lungo tempo, ma inflisse nel senso migliore della parola, a Mauro Tassotti questi allenamenti specifici. I piedi di Tassotti, che ovviamente erano predisposti, migliorarono a tal punto che qualcuno ricorderà come, se non il principale, ma uno dei principali fornitori di assist, per esempio, a un giocatore come Van Basten, diventò proprio Mauro Tassotti. L'ultimo intervallo, strade. Autocartellino giallo, perché mi scrive Valerio da Palermo che stasera il Palermo ospita lo Sparta Praga e non il Losanna, con cui il Palermo giocherà fuori casa all'ultima giornata. È verissimo, ed è la spia che effettivamente è un'altra spia in più, che questa Europa League non è proprio una di quelle cose che ti stregano, no? Evidentemente. Un paio di ascoltatori ancora. Alessandro dalla provincia di Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo dire un paio di cose rapidissime. Io sono un appassionato di Inter e vedendo giocare il Barcellona con il Real Madrid, purtroppo non ho potuto seguire tutta la partita, ma insomma ho visto dei pezzi. E pensando che l'Inter l'anno scorso è riuscito a battere il Barcellona, credo di aver capito come mai quest'anno l'Inter non va tanto bene, perché probabilmente ho idea che i giocatori dell'Inter l'anno scorso abbiano dato, io credo, il 120% di quello che era nelle loro corde, perché battere una squadra del genere, secondo me, all'Inter può succedere, anche all'Inter dell'anno scorso una volta su 20, specialmente. Penso anch'io, però tenga conto, Alessandro, che una squadra come il Barcellona, cioè, non è che si può giocare tutte le partite a quel livello dell'altra sera. Questo non c'è dubbio. E per esempio nel periodo del doppio confronto con l'Inter, il Barcellona palesemente non era al massimo, poi era sempre il Barcellona, ma intanto non c'era Iniesta, intanto c'era Ibrahimovic, che era per il Barcellona un danno, perché era un corpo estraneo in quel genere di gioco. Non erano in grande condizione, infatti allora anche in campionato ebbero qualche flessione, qualche passaggio a vuoto, e poi fu indubbiamente bravissima l'Inter, soprattutto nella rimonta a San Siro e poi nel resistere, anche fortunata nel resistere al ritorno, insomma. Se posso, se sono ancora in linea, certo. Volevo dire che, pur essendo un appassionato di Inter, ma ecco, vedere giocare una partita come quella di ieri sera su un campo del genere con gravi, gravi rischi, penso anche per l'incolumità dei giocatori della Juventus e dell'altra squadra, credo sia veramente una cosa scandalosa, perché a meno di 10 proprio di calcio credo che non si possa parlare. Sì, la saluto e la ringrazio. Grazie a lei, no, questo è oggettivo, insomma, ma questo è un tassello in più che si aggiunge a un ragionamento da fare, che ormai è indifferibile, cioè una riforma di calendari. Non si può evidentemente intasare. Se tu hai questo calendario così gonfiato, così enorme, no? Così pieno di impegni e di appuntamenti, non riesci a distribuirlo sulle, non dico le buone stagioni, ma insomma perlomeno evitando le pessime. E quindi ti riduci a giocare a fine novembre, all'inizio dicembre, a latitudini dove loro stessi per primi sospendono i campionati. Quindi insomma c'è qualcosa che non torna. Angelo ha chiamato da Bari, buongiorno. Salve signor Garanzini, volevo allacciarmi esattamente a questo discorso, cioè all'assurdità della partita di ieri sera e al fatto che l'Europa League conti poco quanto nulla, e che anche le società in un certo qual modo contino poco quanto nulla. E le volevo chiedere, per esempio, ieri sera semifinale di Champions League, in quelle condizioni, Real Madrid-Chelsea l'avrebbero giocata? Ma insomma, a Madrid intanto c'è un clima leggermente più temperato, a Londra hanno campi riscaldati, cioè è una questione anche di strutture. Credo di no, credo che la risposta sia no, però guardi che rinviare partite europee non è anche a livello più alto dell'Europa League, non è mai una scelta facile, proprio perché i calendari sono così intasati e quindi devi essere abbastanza sicuro che 24 ore dopo la situazione migliori e migliori notevolmente, perché se invece devi rinviare una settimana poi ti saltano tutte le date possibili, ma questo ormai succede anche nei campionati, io credo, perché uno dei problemi che questo sciopero, giusto o sbagliato che sia, si porta dietro adesso è che dovrai giocare probabilmente il 19 gennaio la sera e quindi con delle perché altre date non ne hai. La complicazione dei calendari così, così folti è molto grave per proprio perché il calcio è così, insomma, è così intasato a tutti i livelli. Lei si ricorderà che l'anno scorso il Barcellona venne a Milano in pullman, a proposito di Inter Barcellona e di equilibri, no? Venne a Barcellona in pullman perché con lo sciopero, non lo sciopero, con le conseguenze del vulcano e quindi i cieli bloccati in Europa, quella partita si doveva giocare quel giorno. Perché se no non c'era più tempi per giocare, quindi Barcellona si fece 30 ore di pullman, che non credo nemmeno quelle abbiano fatto poi benissimo, no? Nell'ambito di quella doppia sfida. C'è ancora un ascoltatore, sentirei la rubrica di Nicola Filippone. Che cosa è accaduto nella storia dello sport il 2 di dicembre? Sembra ieri. 2 dicembre 1997. A Tokyo, il Borussia Dortmund supera per 2-0 i brasiliani del Cruzeiro, conquistando la sua prima Coppa Intercontinentale. Il tecnico dei tedeschi è Nevio Scala, che diventa così il quinto allenatore italiano a vincere il trofeo, iscrivendosi a un circolo esclusivo composto da Nereo Rocco, Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi e Marcello Lippi. Successivamente entrerà nel circolo anche Carlo Ancelotti, con il successo nel Mondiale per Club del 2007. Ascoltatore scrive a proposito di Tassotti e di Lidl: nei primi anni a Torino Radice faceva passare 2 ore al giorno a Pulici a calciare per affinargli i piedi. No, è un anacronismo. Era Giagnoni l'allenatore che nel Torino a fine anni, inizio, primissimi anni 70, con grande successo e con grandi risultati poi si dedicò ad affinare la tecnica. Di Paolino Pulici, quando arrivò a Radice Pulici era già un grande attaccante fatto e finito. Ettore ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. A proposito dell'eccesso di palestra dei calciatori italiani, io credo che ci sia una relazione stretta con l'eccesso di palestra e tanti incidenti muscolari che stanno avendo tanti calciatori italiani. Gli 8 centimetri, gli 8 kg di cui è cresciuto Pato, il disastro muscolare che ha avuto il danno muscolare che ha avuto Coutinho, che è stato pronosticato facilmente. Ma soprattutto mi facevo una domanda che credo si debba rivolgere ad uno specialista, mi dica lei. Io mi chiedo, voi vi siete chiesti prima se Iniesta avrebbe avuto lo stesso successo in Italia, ma io mi chiedo, un ragazzino, un calciatore molto giovane che viene irrobustito in palestra in maniera eccessiva. Sono anni che mi chiedo, ma questi muscoli non si irrigidiscono impedendo quindi un gesto tecnico fluido, naturale? Questa è la domanda che mi pongo e che le pongo. E a cui io non sono ovviamente all'altezza di rispondere. Alla prima occasione la girerò a qualcuno che per l'appunto sia credibile in una risposta comunque abbastanza impegnativa. Grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, a Roberto Scaltritti che era in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.